che è avanti. Ciao la tarista, il tuo era il Bibbia. Eia, era il mio. Andate, e allora, cosa stai combinando? Io cosa sto combinando? Qua sono andato in farmacia stamattina, sto rientrando e mi stavo comprando delle medicine che ero rimasto senza e non ho fatto in tempo a farmele prescrivere. Ho capito, io sono andato con la carriola io a pigliare i medicini. E ogni volta che andava mia moglie a ritirare i medicini in farmacia, Bari ha già fatto la Pisa. Infatti, d'altronde così. E così tiriamo avanti lo stesso. E io stavo mettendo a posto qua. Ah, signore benedetto. Non ho sentito a nessuno oggi. Tutti morti. Oh, sono tutti morti. Anche ieri non ho sentito a nessuno. Tutti morti. Ma se ne appunti, tanto lo sappiamo, ormai è finita. Ormai è finita Natalino. Bisogna rassegnarsi, non ce ne frega più niente. A me non me ne frega più niente. Se c'è qualcuno parliamo, se non c'è pazienza, va bene lo stesso. E infatti, cosa vuoi fare? Andare. L'altro giorno non sono entrato perché non mi sentivo bene e quindi non sono entrato neanche, figurati. Stamattina sono acceso da presto, poi sono andato in farmacia, adesso sono rientrato e ho riacceso e ho visto se è entrato tu. Ok, io avevo appena acceso, l'ho fatto accendendo e ascoltando il bip, per cui è quello, sono appena arrivato in questo momento, stavo leggendo il tablet, il coso, i giornali, eccetera, e poi mi sono fatto la scappatina quassù. Non ne ho capito, ma va fra un po' come un bonga cucina. Mi ha giocato il ciusugo pauroso. Fai bene. Comunque tutto a posto, adesso ti sei ripreso, ti sentivi male. E concetta che ti sentiva male, quando è avanti, ripresa si è. Sì, è ammessa, è andata. È ancora ai fuori. Quando rientra, già ci ha fatto pronto, non c'è problema. auguria, visto che sei a casa, per cui va bene così. E vabbè, io lo stesso, quando sono andato avanti ieri a consultare la dottoressa per tutte le visite che avevo fatto, e mi ha detto tutto a posto. Adesso dovrò andare a fare quelle stesse visite fra un anno. E cappa, meglio così, sono contento per te, io sono ancora in mildo. Da una visita all'altra, gioco. Stamattina mi ha fatto piacere che ho trovato un vecchio CB. Ho trovato e stavamo parlando. No, non mi vorrei dire che hai trovato di nuovo Pinguino, Antonio Pinguino. No. Se te lo dico, ti metti anche a ridere a chi ho trovato, e poi come fai a ridere a troppo dopo, Ira? E c'ha tutto, mi solo che non entra. Guarda, Francesco, abita vicino a me. Io lo so, prima lo vedevo sempre, quando c'era il negozio degli animali lì a fianco a me, no? A fianco alla falegnameria, e veniva lì a comprare il mangime per gli uccellini, eccetera. E veniva sempre, lo vedevo molto spesso. Adesso sono qualche anno senza vederlo, un paio d'anni saranno, forse tre, non lo so di preciso. Perché poi non l'ho più visto, intanto nel frattempo il negozio ha chiuso, Davide non c'è più, già da un bel po', già più di un anno che ha chiuso, forse anche un anno e mezzo e anche di più, che non c'è più, per cui non ci sono più quelle persone che venivano. venivano a comprare il mangime per gli animali. E è caduto poverino, si è troncato una gamba, gli hanno messo la protesi ed era con la stampella, era laggiù che Busardi era banchina dall'altra parte dove c'è la fermata del tram. Ci siamo Busardi tutti e due e dirà me va bene. E poco mi faceva ridere, a chiudi di Vasium, parlava piano piano, parlava, te lo ricordi? Caimu Gaimu. Ebbè, Francisco Edo, Sagonca in Tresaichu. Io me lo ricordo, sì. Dice, viene a tirarmi il cordoncino, diceva. Me lo ricordo, ha caduto e si è fatto male alla gamba. Cazzo, gli hanno messo la protesi, gli hanno messo, si è fatto male la volta. Ed era con la stampella, era infatti. Dunque ancora in fase di guarigione, allora è da poco questa storia. Di va sì. Capitina. E caduto si è fratturato l'anca e gli hanno messo la protesi, infatti l'hanno operato. Lo credo bene, sì. Sai cos'è, l'uomo è anche un po' pesante perché si era ingrassato, perlomeno l'ultima volta che l'avevo visto io era abbastanza pesante, e quando una persona è così che cade, insomma, poi anche una certa età, per cui penso che abbia più o meno la mia età, forse anche di più. Sì, sicuramente. Cazzo, poghetto. A me quando parlava piano piano, parlava, ne vado a troppo ridire, a troppo dopo. Sì. Lo so che ha tutto, già lo so che ha sempre detto che aveva tutto, aveva baracchino, antenna, tutto dice che ha, però non entrava più. Ma un sacco di gente così. Io saranno un paio d'anni fa, due, tre anni fa, sai che avevo visto? Antonio Venerdì avevo visto. E gli avevo detto, ma che non entri per questa? No, dice, ho tutto mi, perché ho tutto quanto, l'ho tutto conservato, però non entro più, dice, no, non c'è mai più. E così è stato, non c'è più entrato, adesso ci manca tantissimi anni ormai. E anche Francesco. Sì. Già è un anno che non entra in DB. E gli ho detto, sì, c'è poca gente, c'è. Però non ha un'idea. Va tutto, va, però no. Non ne ha fatti più nulla. Infatti è così. Ma è un po' a tutti che è successo la stessa cosa, ormai. Tanta gente ce l'ha l'attrezzatura, ma non la usa più, non ne ha fatti più nulla. Tutti stanchi e dunque non ne ha più voglia nessuno. Certo, ho visto che ti hai messo l'antenna lunga lunga, ma di lunga lunga è mi francese. Potrebbe dire, ma lunga veramente però. E gli auguro, gli assumere. Due settimane fa l'avevo vista io, quasi due settimane fa, dai. Passando lì al ponte, perché ero andato a farmi una passeggiata lì, sono arrivato fino al mercato, infatti stavo pensando, stavo a girare ando con il campanello a Natalino, a vederlo di persona, che siamo un bel po' di tempo adesso, senza vederci. E poi ho fatto bene, no, è già tardi, me ne vado, dai. E ho visto l'antenna lì dal ponte, già si vede. E allora, l'ho messa lunga lunga per vedersi io, e tu pure già mi potevi fare un colpo di telefono, sarei sceso. Ma vabbè, sei in fretta che era tardi, sarà per un'altra volta. No, stavo passando, cioè stavo, diciamo, trascorrendo il tempo così, ma ero in attesa che doveva venire mia figlia poi in magazzino a prendermi, capito? Perché sono salito con lei, che lei era andata in un ufficio a fare una commissione di lavoro, per cui fatto bene, nel frattempo faccio una passeggiata, e sono arrivato fino al mercato, e da lì poi ho fatto va, quasi quasi, infatti ho fatto un pezzetto di strada. strada verso casa tua, forse no, dici che me ne vado là, è già tardi, ossia che arriva mia figlia a prendermi. E infatti è successo brutto che arrivando io lì, il magazzino, e dopo 2 minuti nemmeno è arrivata lì. Dunque mi ha caricato e ci siamo rientrati a casa. Sì, ho capito. Pizzina. Io magari mi ha fatto arrivare, ti ho visto che ti hai messo l'antenna lunga lunga, come ti va a vedere tu? E lunga lunga è mi francese. Ho messo quella perché leggera, prima ce l'avevo, e già lo so che ce l'avevi in facciata. Sono riuscito, ne ho approfittato perché ha aperto il tetto, perché non c'è manco botto l'aria, Giudito, adesso è richiuso. Beh, adesso è a posto suo, adesso è nel posto giusto, dove è piazzata, già lo credo, va bene così. Stavo dicendo, non ho più sentito più nemmeno a Franco Binario, non l'ho più sentito. Vabbè che non c'è più nessuno, giustamente anche lui accende, vede che non c'è nessuno e allora, se, come tutti del resto, no? Quando non sentono nessuno allora chiudono e poi era servito, così è, succede così, purtroppo è così. Marco lo stesso, Marcolino, non ho più sentito Marco, come si chiama? Vabbè, Marco, già Marco Pris, non Marco il reanimatore, Marco l'altro. Non l'ho più sentito nemmeno lui. Non ha nigana, no. Marcolino lo stesso, non l'ho più sentito manco io a Condor, Marcolino Condor. Tutti stancati si sono. Infatti, tutti stancati. Poi non parliamo di Claudio. Claudio è un anno che manca, non è più rientrato. Non l'ho più sentito, più, ma nemmeno al telefono, almeno prima ogni tanto al telefono, qualche telefonata, ci facevamo qualche messaggio, invece non ho più sentito più nemmeno al telefono. E io allo stesso non l'ho né più visto né sentito. Anche a lui starà divertendo dove deve stare. Beh, certo che sì. Va bene, intanto cosa ci faceva qua, se non c'è più nessuno. È inutile, poi già lo sai come è andata la frequenza, per carità. Vabbè, comunque. No, anche perché lui era il trascinatore, se vogliamo, tutto sommato, no? Nella 27, quando entrava lui c'era sempre qualche persona in più che parlava, però poi anche lui evidentemente si è stancato e ciccia, vabbè, pazienza. L'unica cosa è che io non ho approfittato a mettermi un dipolo, chi si è solita l'antenna ma chi si mandi, che errore che ho fatto. E c'è anche la carrucola mi sul palo. Bah, se mi avessi piazzato un dipolo almeno, invece niente, ho piazzato solo l'antenna per qua e boh, potevo piazzare un dipolo e l'antenna per le bande di su, che ce l'avevo. Bah, ho fatto tutto in fretta perché ho visto che ha scoperchiato il tetto, quello lì, sono saliti due amici miei e me l'hanno piazzata. Perché io non ci potevo salire con questa gamba in queste condizioni, cosa va? Prima Barrio Darda, lì è di Poli, ho visto. Lo so, ma intanto dove avresti esteso questo dipolo, il posto c'era per estenderlo sopra, anche quello c'è da considerare. Allora tanto voleva mettere un'antenna decametrica, allora tanto voleva mettere quella, se no come facevi? Non è che sia poi tanto grande quel tetto, per cui non credo che ci sia poi tanto posto per estenderlo il dipolo. Sì, che ci stava, avevo invertita, voglio se ci stava. Almeno poi avevo ascoltato, invece ha dubbiato su Luisa, l'antenna e basta, tutto in presa e muovatemi, sennò a Saibuni a fare un dipolo, tanto per ascoltare. C'era un progetto che c'erano anche le cariche, lo facevo anche corto, mi volendo. prima. E vabbè, quello sì. E allora tanto voleva che ti mettevi un'antenna tipo mantova o qualcosa del genere, la 827 ad esempio, della SIO, quelli già ascolta, già puoi ascoltare tutte le bande, non so. Sì, ma te lo dicevo sempre che era sorda in quelle frequenze, la KF è sorda, la Game Master, te l'ho sempre detto. E dunque, ci dovevi pensare prima, se proprio eri intenzionato, a me non me ne frega più niente, nemmeno di ascoltare, no? Se no mi avrei preso anche un piccolo ricevitore, o una radiolina mia, una radiolina da 100 euro, che ascolti tutte le bande ugualmente, no? Non c'è problema. Ma non ne vale la pena, cosa, tutti tanto la massa di ciapuglioni, per carità, perché anche lì pure ci sono persone che non meriterebbero di stare in quelle bande lì. E quello già è vero, Giulio, quello già è vero. Ce l'ho io la radiolina al ricevitore, bello, però cosa, se non fai antenna non fai nulla, non c'è nulla a fare. Io non lo sapevo che era così sorda su queste bande qua, va bene solo per qua diciamo, là, per questa frequenza qua, ma nelle bande di giù non va bene. L'ho provata, si sente sì, ma arrivano bassi bassi. Ma l'ho sempre detto io che la Game Master è sorda per quanto riguarda quel tipo di frequenze lì, a differenza della Mantova Turbo, come avevo prima, che sentivo benissimo, anche 9,20 mi arrivavano, si può immaginare, senza bisogno di mettere mai né dipolo né niente, solo con l'antenna ricevevo, per cui era un fenomenale. Anzi, diciamo che in 45 metri l'ho anche usata per un bel po' di tempo, quando allora era possibile, oggi non è più possibile nemmeno lì, per cui però in 45 metri tante volte la mattina mi mettevo a modulare con i radioamatori, perché se ne passavano lì per fare diciamo così trasmissione libera, no? A differenza delle bande HF che non puoi, diciamo così, non puoi strappare, non puoi dire niente di più, devi parlare praticamente solo di cose quasi sempre tecniche. E lì invece si parlava anche di qualsiasi cosa, anche di passi e fagioli, tanto per fare un esempio. E io entravo insieme a loro, dall'Alta Italia alla Bassa Italia, accordando la radio, già lo sai che era entro contenuto, c'era l'accordatore, e mi davano anche 9,10 mi hanno dato, dall'Alta Italia alla Bassa Italia, sempre, tutte le volte che io volevo, entravo quando c'erano loro e chiacchieravo con loro, tipo CB, dai. E adesso invece ce lo stanno usando anche le bande radioamatoriali tipo CB. Nelle bande alte è tutto uguale. Io mi sarei vergognato a parlare in quel modo in banda radioamatoriale. Mi sarei vergognato, la verità. Poi dicono che ero io, che ero scorretto. No. Io qua poi non parliamo di qua, perché io quando accendevo per ascoltare qua sentivo sempre qualcuno ogni tanto, sentivo, ma non c'era questa grande attività. Magari in 2 metri probabilmente ci sarebbero stati di più a lungo, infatti, ma io non ne avevo di ricevitore per i 2 metri, per cui no. Poi casomai quando mi sono preso il Baofeng, allora già sentivo, già sento, quando voglio sento lì, ma ce l'ho buttato dalla parte anche quello, non sto più ascoltando, sono mesi e mesi, forse qualche annetto anche che non ho acceso più nemmeno il Baofeng, ci puoi immaginare, perché lì le frequenze ci sono, lo posso sentire in 2 metri. E io ce l'ho il ricevitorino per lì. Però l'antenna è fuori dalla finestra, non si sente un granché più. Quando c'avevo la X30 sì che sentivo bene, ma potevo piattarmi anche quella, invece nuda. Giubia sta in club. Infatti se dovessi andare che non entra più nessuno, mi prendo tutto e basta. E cosa vuoi fare? Tanto. Eh beh sì, cosa? Se non ne vale la pena tenere, ma io mi sono disfatto di tutto. Ho tenuto questo baracchino, buh, tanto scusa me ne frega. Questo già è nuovo, lo sai, ce l'ho appena un anno e mezzo, ma è immacolato, perché io l'ho messo lì nello scaffale, passa solo lo straccio per sfoderarlo, buh, basta. Non ho mai fatto niente, non agio di macchine in capo io di modificarlo, eccetera. Ho solo adattato il microfono, ma con uno stressore e basta. Ho fatto lo stressore perché il microfono è rimasto sempre quello, perché va bene per tutti quelli che ho avuto. Per cui va bene così, ma per il resto non era il caso. Ma nemmeno, con questo volendo vado anche in dormito a ascoltare, ma non bisogna mai andare, non me ne frega niente, capito? Lo sai benissimo, no? Che questo qui si può impostare anche sui 10 e 12 metri, per cui non mi interessa, ecco, no, assolutamente. Vado da qui, si dai 40 e basta, boh. Sì, lo so, non ti perdi niente, se lo stanno usando peggio del baracchino, siamo più educati noi, figurati un po'. Infatti è sempre spento il ricevitore proprio perché non mi interessa più, basta. Adesso ci dedichiamo a qualcos'altro. Oggi meno male ho camminato un po', che sono andato in farmacia a piedi. Dovevo andare anche a prendermi il dolcificante, ma guarda, ho trovato a Francesco, mi sono fermato lì e non ci sono andato. E così non ho preso né macchina né nulla. Ok. Vabbè. No, io le medicine già me le porta mio genero, per cui lui è farmacista, per cui io non devo nemmeno muovermi per comprare le medicine. Me le porta lui direttamente e basta. Quello che mi occorre glielo comunico tramite il telefono e mi hanno prescritto questa, va bene, te la porto e così via. No? E allora va bene così, non devo nemmeno muovermi per andare in farmacia a comprare niente. Capito? E va bene, dai. E poi mi si era rotta ieri la macchina della glicemia, rotta. L'ho sta funzionando a mia moglie, a portare l'altra macchina a cambiarle le batterie perché mi segnava che c'aveva le batterie in esaurimento. Me l'ha tornata e non funzionava più. Meno male stamattina sono andato a prendermi le medicine, l'ho portata in farmacia, gli ho detto guardi non accende più, beh lo sai che me ne ha regalato un'altra uguale il farmacista, molto gentile, guarda veramente squisito quella persona. E non so come ringraziarlo, infatti adesso ce l'ho nuova. Me l'ha regalata lui perché non è riuscito neanche lui. Le batterie gliele abbiamo messe nuove ieri, però non attendia più che a cosa. Boh. Le cose elettroniche già lo sai, sono soggette a guastarsi, è normale, no? Sì che prima o poi anche loro si fermano, si bloccano. È stato gentile sia a regalartene un'altra nuova, meglio così, dai. Meglio così, così almeno ce l'hai e non se ne parla più. Sì, vabbè, comunque. Cosa vuoi che ti dica la Natalì? A questo punto no, non so cosa dirti. Purtroppo succede di Wissu, non mancano le spese che ci vogliono oggi per vivere, ci vogliono anche le spese per le medicine, perché tante medicine le paghi, sì, qualcuna già te le dà la sanità con l'esenzione, ma la maggior parte, almeno quello che prendo io, diciamo che sono a conto di dinà e a conto di soldi, non c'è questione di esenzione, qualcuna c'è l'esenzione, tipo che so io delle gocce, ma per il resto voi, sempre anche integratori soprattutto. avuto questi cose così, quelli sono molto costosi. Io prendo un integratore che costa 80 euro, devo immaginare, e cosa mi dura? Un mese, più o meno un mese. Sì, lo so, anche a me me le fanno pagare, certo. Infatti sono andato a comprare a Mira la macchinetta, proprio. Invece gli ho detto quanto la devo, dottor? Niente, lasci perdere. Ma ha tornato anche la vecchia, così almeno recupero le batterie nuove. Anche da giù con Paraglia rimane di batteria da macchino. Mi rapucchino, no, attendiamo la macchinetta. Boh! Vabbè. Meno male ho recuperato quella lì, almeno me la posso misurare fino a marzo, che devo fare la visita diabetologica, no? Li butto chi sa bici e mi la posso dare a Torra Nuova, non manco una di scorta. Eh beh, certo. Io lo stesso adesso sarò più assiduo, sarò a cercare di prenotare le visite, perché l'ultimo che ho pagato 270 euro, no? E non sono poche, non sono poche. Tu me ne dai, vabbè, io le vuoi pagare, d'accordo, ma se io ho l'esenzione, per quale motivo devo pagare la visita, che sono così in canni, che sono quasi 5 anni, 4 anni e mezzo, dai, per l'esattezza, in carica a loro, e tu mi fai pagare l'ultimo attacco che ho fatto. L'altra, vabbè, la devo fare adesso al prossimo gennaio, la devo fare, ma già incomincio io, sì, 6-7 mesi prima incomincio a preparare le cose, le richieste per le prenotazioni, perché se no, se tu rimani all'ultimo momento, non è più il posto, nella maniera più assoluta, e allora deve passare al pagamento. Anzi, a dire la verità, quella non la devo fare più. Adesso mi ha detto l'ultima, anziché fare l'attacco, faccia solo la cosa, come si chiama? Aspetta, quella che ti fanno nella pancia, non me la metto come si chiama, ma penso un po'. Il video, insomma, ti guardano nell'addome. Deve essere l'ecografia quella che ti devono fare giù, l'ecografia forse. E cosa vuoi? Vabbè. E adesso gli esami del sangue mi ripassino in bagà, ma cosa? Io sono esente, no? Però devo assicurare lo Stato, non le paga niente, amici. A fare due voci, devo andare a fare un'altra visita oculistica per ordinarmi gli occhiali, quella ci vado a pagamento, perché posto non ce n'è, a dicembre mi vuoi a prenotà. Dimmi tu, se è possibile una cosa simile, se uno è murendi. Vai a pagamento, vai dalla dottoressa Coppola, via Armando Diaz, te la fai in pochi giorni, 100 euro ti prende per la visita oculistica. Ed è anche molto brava in quanto lavora all'ospedale, lì lavora in ospedale, lavora. Intanto tu andi a fare la prenotazione, non ci riesci mai, devi stare mesi e mesi aspettando di avere una prenotazione. Tanto vale 100 euro, via Armando Diaz, dottoressa Coppola, lavora lì a Ossieri, lavora, è dottoressa a Ossieri, è bravissima, è un'ottima dottoressa, veramente, gentile, eccetera, eccetera, per cui va bene, poi diciamo che è anche vantata da tutti, se te lo vuoi scrivere, dottoressa Coppola, via Armando Diaz, mi sembra che sia il numero 13, se ricordo bene, il suo ambulatorio privato. Arrivano a telefonata, arrivai e dopo ti dà l'appuntamento, in pochi giorni ti visita. No, l'ho già preso l'appuntamento con la dottoressa Pintus in via Duca degli Abruzzi, che me l'ha detto l'ottica, no? Perché io ho detto non trovo posto, ho detto e allora vorrei andare a pagamento, se mi sa dire qualche dottoressa, ho detto, o qualche dottore che me la faccia questa visita oculistica, perché sennò non posso farmi gli occhiali nuovi. E mi ha detto vada a questa dottoressa, telefoni a questa dottoressa, così, ha giù telefonato e mi ha dato l'appuntamento a Macuri, ma dado, anda a pagamento, cosa vuoi fare? le visite del sangue le devo fare due volte e le devo pagare, perché uno le vuole vedere la, come si chiama, la cardiologa, perché mi aveva trovato la pressione un po' alta, no? Però oggi ho visto che andava bene e non le dico nulla. Si veguia, s'adorra, la telefono e mi cambia la cura, no? Perché mi aveva cambiato una pastiglia che dice che era troppo forte quella che prendevo, e allora me l'ha cambiata e mi ha fatto dimezzare un'altra che ne prendevo intera e me l'ha fatta la metà. Mo vediamo, oggi andava bene per esempio la pressione, vabbè. E l'altra devo fare per la diabetologa, no? Devo portare la pipì e fare gli esami del sangue per la diabetologa. Chi sarà già a marzo la visita? Ne ho una visita all'altra, Zoguzzu. Zoguzzendi, ne ho le scatole piene. Purtroppo è così. Quando si arriva alla certa età è così, Natali. E anche io non so bene di tutte le visite. Io non ne ho saltato mai una. Questa sono 4 anni e mezzo, 5 anni io praticamente. Allora, a dire la verità, abbiamo iniziato anche 10 anni fa, o 12 anni fa, nel 2009, addirittura lì era stato operato l'appendicite, era stato operato, anzi è stato ricoverato un mese quasi io in ospedale, perché non riuscivo a trovarmi il problema. E poi alla fine, vuol dire, era l'appendicite, perché era nascosta da uno strato di grasso e non si vedeva. Allora mi hanno operato lì all'ospedale, questa è l'ospedale civile. Io ho capito, io lo so. Ma è da un po' di anni a questa parte me ne stanno succedendo di tutti i colori. Ha subito 2 operazioni, ha già avuto la pancreatite. Più a ripidare che no, Ghiro, dimmi tu. È una cosa lunghissima, per cui che deve stare sempre in osservazione, perché era una cosa abbastanza grave. Pertanto bisogna pazientare, bisogna seguire sempre tutti i controlli. Grazie a Dio tutti i controlli sono andati tutti bene in questi 5 anni quasi, e adesso speriamo che continui ad andare bene. E non lo so, appunto ti stavo dicendo, l'ultima attacco l'ho fatta alcuni giorni fa, l'ho fatta, adesso Stacchi dice non deve fare più, fa la cosa, l'ecografia, come stavi dicendo appunto tu, fa l'ecografia che è meno diciamo invadente, diciamo, perché l'attacco non è che sia invadente, però sai, ci sono tante radiazioni, perché ne ho già fatto roba di 07 io di Stacchi in tutti questi anni, capito? Sì, lo so, io l'ho fatta 3 mesi fa, adesso devo farla fra 3 mesi, sempre che riesco a farla. A chi così non ce n'è. Adesso comincio a tornare a ritelefonare, sennò andare a Giuburi a pagare 270 euro, da voi ti dica, perché io ho un aneurisma e devo per forza fare questa sacca. Sì, beh certo. Io avevo incominciato, prima me l'avevano fatta, la prima di tutto me l'avevano fatta in ospedale, prima una volta, poi la seconda volta quando mi hanno, prima di dimettermi, e mi hanno mandato a casa. Poi facevo l'attacco ogni 6 mesi, facevo l'attacco. Poi l'ultima che l'ho fatta dopo un anno, e adesso mi hanno detto adesso basta con l'attacco, adesso è solo l'ecografia, dice. Per cui però devo fare anche altre visite, tipo la cistoscopia ad esempio, tanto mi fa un esempio, qualche cosa fra un anno. E poi devo fare anche la visita dell'urina, l'esame citologico, si chiama esame citologico, 3 provette che vanno analizzate, vanno, ma quella addirittura posso fare anche ogni 3 mesi volendo, ma loro mi hanno detto basta adesso, basta fra una volta all'anno, mi hanno detto, però quella la posso fare anche, tanto che se non fare niente, lo fare, gliela porto e via, dopo 10 giorni ti danno il risultato. Capito? Lì il biomattivo ti deve portare, credo che sia il biomattivo, cioè, non deve fare la manzella, in chi è vicino. Le provette, loro le analizzano, dopo 10 giorni ti danno il risultato. Io ho capito. andare, dai, giù, io me ne passo in cucina, che è tornata anche mia moglie che ti saluta, e andiamo a preparare qualcosa, dai, ci sentiamo alle prossime, giù. Mi ha fatto piacere ascoltarti, grazie per il QSO, io purtroppo devo fare QRT, ci sentiamo. Ok, ciao Natali, grazie a te per la chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, salutami in casa. Ciao, ciao, buon pranzo quando lo farai, ciao. Ciao, ciao, altrettanto, giù, alle prossime. Flippelo! Almeno Baracchino ti sarà rimasto, no? Cosa devi? In due burghissu? A te, tuo flippelo! Lava di la lecci stamani, non te l'hai lavati? Non mi senti? Chi è avanti? Giulio, finna sono, Tore. Tore? Ciao Tore. No, come sta uscendo? Bene sta uscendo questo microfono. Sì, sta uscendo benissimo, non c'è problema. Sì, ok, grazie. Adesso l'ho messa a posto. Sì, va benissimo Tore, bella chiara. Meglio così. A posto, ok, grazie. Sì, niente Tore, figurati. Va bene, se stai chiudendo ci sentiamo allora, dai. Ti sto chiudendo, ci risentiamo, che lo devo richiudere. Ok, ciao ciao tu allora. Va benissimo comunque la radio, non c'è problema. Ok, alle prossime. Willy! Attento Flipper! Flipperino, ci sei sì o no? In ora mar